durante l'attività fisica di media intensità, che è anche l'attività comunque più idonea per la maggior parte della gente, oltre che per aumentare la capacità respiratoria, anche per esempio diminuire di peso laddove fosse la persona in sovrappeso, è consigliabile un tipo di respirazione che comunque preveda sempre sia l'utilizzo delle vie aeree nasali che quello proprio della bocca. Quindi respirare con il naso e con la bocca. Sì, nello sport e nell'attività intensa ci sono state nel passato delle teorie magari un po' discutibili, per cui bisognava respirare principalmente col naso, piuttosto invece ovviamente maggiore la quantità di ossigeno che riusciamo ad accumulare attraverso le nostre vie respiratorie e meglio è comunque per produrre poi energia per i nostri muscoli. Quindi bocca aperta e naso aperto? Sì, direi di sì. Tra l'altro una cosa che si può fare simultaneamente, che è molto facile, che io consiglierei di provare a fare ai nostri radioascoltatori. Molto spesso, quasi sempre, chi non è pratico proprio nello sport e chi magari si cimenta per le prime volte, tende a contrarsi molto, anche per esempio nei muscoli del viso. Questa contrazione inutile, direi, provoca da una parte un aumento di quella che è la fatica generale e conseguentemente anche un respiro più limitato, perché i muscoli e i polmoni sono strettamente correlati, nel senso che più i muscoli diaframmatico, costali, intercostali sono elastici, e maggiore è la capacità polmonare, la nostra capacità di respirare. Quindi io direi di provare a far questo, radioascoltatori. Provate a camminare Sì. oppure anche a correre, ma lasciate perdere la contrazione dei muscoli facciali. Ne abbiamo tantissimi di muscoli sul viso, cioè più di 60. Ma anche dei muscoli, per esempio, delle braccia. Inutile mantenere le braccia contratte laddove i muscoli che principalmente ci servono nella deambulazione o nella corsa sono quelli degli arti inferiori. Ciò facendo possiamo permettere quindi di riflesso e Sì. non attivamente al nostro respiro di compiere la sua azione nel massimo della sua potenzialità, perché non è costretto da contrazioni che in quel momento tolgono alla capacità respiratoria la sua funzione vitale.